Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, a tutti ben ritrovati a Salvadanaio. Per alcuni è il modo per far pagare anche alla finanza il suo prezzo della crisi, per altri un rischioso balzello che potrebbe allontanare gli operatori finanziari ed avere anche effetti recessivi sulla già mal ridotta economia italiana. Per altri ancora dipende. Dipende dalle modalità con cui viene proposta e soprattutto dall'opportunità di una scelta coordinata che arrivi da un buon numero di economie e non solo da alcuni paesi. Questo, in termini molto semplificati, il dibattito che in questi giorni sta investendo la decisione del governo italiano di introdurre con la legge di stabilità anche una Tobin Tax, un'imposta sulle transazioni finanziarie. La discussione in realtà ha delle origini ben lontane nel tempo, ben 40 anni fa, quando è partita appunto questa discussione, quando l'economista, poi premio Nobel per l'economia James Tobin, propose il progetto di questa imposta che avrebbe preso appunto poi il suo nome. Oggi Salvadanaio, noi cercheremo di contenere il dibattito meramente politico tra chi è pro e chi è contro. Più che altro vorremmo andare a capire i meccanismi e il funzionamento, l'applicazione di questa tassa, cosa comporterebbe appunto la sua introduzione se concepita nei termini che conosciamo proposti dal governo, cosa comporterebbe non solo per gli operatori del settore, quindi magari grandi trader, grandi intermediari finanziari, ma anche come potrebbe colpire anche gli investimenti di piccolo taglio, quindi come potrebbe colpire l'operatività di piccoli investitori. Ne parliamo con un gruppo di esperti, con il collega del Sole 24 Ore Vittorio Carlini, che saluto. Ciao, benvenuto, bentornato. Buongiorno a voi. Con noi quest'oggi anche Luca Barillaro, trader indipendente. Buongiorno Barillaro, bentornato. Buongiorno a voi, grazie. Vincenzo Tedeschi, direttore generale di Bink, che è un intermediario finanziario, lo abbiamo presentato poche settimane fa, di recente sbarcato sul mercato italiano, di matrice olandese, quindi tra l'altro anche questo sarà sicuramente un contributo interessante, quello che sentiremo per capire un po' che aria tira a livello internazionale sull'eventuale applicazione di questa tassazione. Tedeschi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Più tardi ci collegheremo anche con Andrea Baranes, presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e portavoce della campagna 005, perché in Italia esiste una campagna che da anni chiede una tassa sulle transazioni finanziarie. È una campagna sostenuta da decine di organizzazioni della società civile, per cui effettivamente c'è anche chi ne denota tutte le caratteristiche positive da una misura di questo tipo. Vogliamo come sempre naturalmente anche il vostro contributo. Ci potete chiamare all'800240024, ci potete scrivere alle 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. potete andare a fare i vostri commenti su Facebook salvadanaio-radio24, ma anche su Twitter @salvadanaio24. Qua ho terminato con la consueta lista della spesa quotidiana, che tra l'altro appunto si è allungata negli ultimi tempi proprio grazie anche alla nostra attività, come per tutte le trasmissioni di Radio 24, sui social network. La borsa oggi è positiva, abbiamo dei rialzi di oltre un punto su tutti i listini del vecchio continente, una giornata di recupero, peraltro anche un peccato che all'Europa manchi lo stimolo americano. Wall Street è chiusa anche oggi per la dirompente conseguenze, appunto le dirompenti conseguenze del passaggio dell'uragano Sandy, che sta pian piano un pochino smaltendo la sua potenza, ma ha creato veramente molta preoccupazione, molti danni. Milano sta guadagnando un punto, vediamo un po' i migliori titoli di stamattina. Mediaset più 3,74, Salvatore Ferragamo più 2,45, Mediobanca più 2, Eni dopo i conti comunicati stamattina in rialzo di 2 punti, dopo i conti comunicati poco fa Fiat S.p.A. invece perde il 3% ed è il peggior titolo in questo momento di Milano. A distanza seguono i ribassi di 0,4 punti di Ansaldo, di Assori nemmeno 0,3%. E ancora un po' altino lo spread fra BTP e Bund, siamo sui 350 punti base, però stamattina c'è stata una nuova buona asta di titoli di Stato italiani. Il Tesoro ha collocato BTP a 5-10 anni per tutti i 7 miliardi previsti, con rendimenti in discesa. Per il titolo a 5 anni siamo scesi al 3,80%, per il titolo a 10 anni siamo al 4,92%, quindi siamo un po' al di sotto di quel 5% che il BTP sul secondario ha rispolverato ieri, giusto Vittorio? Siamo di nuovo un po' su livelli... un po' di disturbo, ma leggevo stamattina che anche il risultato delle elezioni siciliane non è market friendly, quindi non è amico del mercato. Che ne pensi? Beh, il Financial Times oggi ha in prima pagina un editoriale sulla vittoria di fatto poi del partito, lo chiamiamo partito visto che è stato un po' di polemiche su come deve essere chiamato, di Beppe Grillo. Quindi la rilevanza delle elezioni pur locali e regionali in Sicilia dal punto di vista dei mercati è notevole. Infatti non lo colgo mai impreparato Vittorio su niente, addirittura ci ha portato, riportato stamattina l'editoriale del Financial Times. Detto questo, andiamo invece subito al tema di oggi, perché il nostro Marco Lombardo ha preparato una scheda su questa Tobin Tax. È da molto che se ne discute, qualche paese in Europa ha anche provato ad applicarla, poi facendo anche una clamorosa marcia indietro. È successo in Svezia, ma sentiamo la nostra scheda. Era il 1972 quando l'economista James Tobin, premio Nobel, propose la tassa che avrebbe preso il suo nome. Secondo il progetto di Tobin, l'imposta avrebbe dovuto colpire tutte le transazioni sui mercati valutari per stabilizzarli, penalizzando le speculazioni valutarie a breve termine e andando al tempo stesso ad accumulare un gettito da destinare alle necessità della comunità internazionale. Tobin individuava l'aliquota tra lo 0,05 e l'1%. I sostenitori affermano che a un tasso dello 0,1% la Tobin Tax garantirebbe ogni anno all'incirca 166 miliardi di dollari. Gli oppositori invece fanno notare che il balzello renderebbe insostenibili la maggior parte delle transazioni finanziarie, che guadagnano su piccole variazioni dei prezzi, e causerebbe quindi una diminuzione delle transazioni e un gettito ben inferiore. Un paese europeo, la Svezia, tentò di introdurla proprio in quel lontano 1972. L'aliquota fu fissata inizialmente allo 0,5% e applicata al solo mercato azionario. Fu poi portata all'1% nel 1986, andando a colpire anche le obbligazioni. Il risultato però fu deludente. Le transazioni diminuirono del 75% e nel 92 l'imposta venne abolita. Un esempio che, letto così, porterebbe acqua al mulino dei detrattori. Ma cambierebbe qualcosa se ad applicare la Tobin Tax non fosse un unico paese? È chiaro che noi registriamo le prese di posizione molto nette, radicalmente opposte dei grandi intermediari finanziari, che forse oggettivamente hanno già quantificato quello che potrebbe essere l'impatto sulla loro operatività dell'applicazione di una imposta di questo tipo. Ma magari Vittorio Carlini, ribadisco il Sole 24 Ore, riusciamo a fare un esempio semplice per far capire ai nostri ascoltatori appunto di che tipo di imposta stiamo parlando, come potrebbe avere in una transazione media, magari quella che fa un piccolo investitore sul mercato che, non so, vuole prendere posizione su un titolo e acquistare Eni, Fiat, li vedo oggi, per 10.000 euro. Quindi intanto in che momento, in quale punto si applica questa imposta appunto su questa transazione finanziaria? E tra l'altro non ci dobbiamo dimenticare che va ad intrecciarsi anche su tutta la rimodulazione delle imposte sul risparmio appunto che è arrivata nell'ultimo anno. Sì. Premetto che io, in linea generale, questo voglio essere ben chiaro, sono favorevole alla Tobin Tax, intesa come una tassazione sulle transazioni finanziarie che però deve avere la caratteristica della globalità. Cioè io non credo assolutamente che si possa applicare se non è globale, soprattutto nella sua applicazione. Quindi in teoria sono d'accordo, un granello di sabbia negli ingranaggi di una finanza ipertrofica secondo me è giusto, però deve essere globale. Così come è impostata non è globale e secondo me crea solo dei problemi e ai mercati. Quando viene applicata, bisogna aspettare il decreto quindi intanto attuativo. Abbiamo ancora una situazione grigia. Sì, perché adesso la legge prevede, diciamo, la tassazione dello 0,05% sul valore della transazione per quanto riguarda le azioni. Per quanto riguarda invece i derivati è il nozionale, sono esclusi i titoli di Stato. Si discute per esempio sul fatto che quando deve essere diciamo applicata, credo che gli intermediari saranno il sostituto di imposta e penso che ci siano

100 euro investiti sul CAC 40 oggi sarebbero 103,80, mentre sarebbero 108 sull'Eurostoxx 50 e 111 sul mercato italiano. E non solo, la volatilità, cioè la volatilità intraday, è identica a quella degli altri mercati europei, vuol dire nelle giornate recenti in cui i mercati hanno fatto vedere anche dei meno 2%, l'indice francese ha seguito anche lui per il meno 2%. Non solo, come diceva prima Vittorio Carlini, ci saranno, e come ha detto anche Banca d'Italia qualche settimana fa, ci saranno fenomeni di disintermediazione, cioè gli scambi verranno semplicemente portati su trading venue alternative, tra l'altro volute e favorite dalla direttiva MiFID, che è una direttiva europea, perché non c'è più la concentrazione degli scambi. Quindi il prezzo di molti nostri titoli nazionali verrà determinato in altre borse, fuori confine, e noi qui vedremo book di contrattazione aperti, molto dove denaro e lettera sarà più distante, e alla fine quando ci saranno delle variazioni saranno variazioni immediate e repentine causate da ordini di acquisto e vendita provenienti ed eseguiti su altri mercati. Certo, quindi il paradosso è che diminuisce la trasparenza del mercato, perché le transazioni vanno su mercati over the counter o su mercati alternativi. Barillaro, non la voglio mettere in difficoltà chiedendole se lei sceglierà di effettuare un percorso di questo tipo, però molto più concretamente le vorrei chiedere, così, se è riuscito già a quantificare quale potrebbe essere l'impatto nella sua operatività quotidiana dal punto di vista proprio del denaro, cioè un'applicazione di una imposta di questo tipo, dato che lei è un trader, fa centinaia di transazioni quotidiane, quanto le potrebbe costare uno scherzetto del genere? Allo stato attuale, visti i volumi medi transazione dell'ultimo anno, intorno ai 50.000 euro. Che non sono proprio noccioline. No, rende antieconomico prendersi il rischio di stare sul mercato e dare liquidità al mercato. Allora, noi ci fermiamo adesso perché abbiamo la nostra prima pausa, poi vado a Vincenzo Tedeschi, poi sentiremo anche la finanza etica, che cosa ne pensa, che invece non vede l'ora che una tassa di questo tipo possa essere recepita anche dal nostro paese. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure scriveteci alle 349-238-6666. Stavo già curiosando sui vostri messaggi, ne daremo lettura tra pochissimo. Salva Danaio. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, una decina di paesi europei stanno per varare una Tobin Tax, una tassa sulle transazioni finanziarie, fra questi c'è anche l'Italia, che nella legge di stabilità ha previsto questa aliquota, la indicavamo prima, dello 0,05% sulle compravendite di azioni e derivati, una tassazione che sarà dovuta in parti uguali da acquirente e venditore, che sarà trattenuta dalla banca che si fa da intermediario, da sostituto d'imposta. Questo balzello, perché in molti naturalmente lo ritengono tale, dovrebbe entrare in vigore da gennaio 2013, per la verità tutto dipende ancora dalle modalità operative che devono ancora essere definite da un apposito decreto. Stiamo cercando di disegnare le possibili conseguenze di questa misura, cercando anche naturalmente di dar voce alle posizioni contrapposte, alle posizioni invece favorevoli, fra un po' ne sentiremo una. Intanto volevamo ancora aggiungere altra carne al fuoco con Vittorio Carlini, appunto, delle Sole 24 Ore, riprendendo le riflessioni fatte da un trader che abbiamo sentito poco fa, Luca Barillaro, che è ancora collegato telefonicamente con noi. Tra l'altro abbiamo quantificato quanto gettito potrebbe avere il nostro paese dall'applicazione di questa norma, forse abbiamo qualcosa. Barillaro, forse ne parlavo con lei, 1 miliardo di euro? Questa è la stima della relazione tecnica del Tesoro. In realtà il calo degli scambi sia sul mercato, certo, cash dei derivati potrebbe, a nostro avviso, non raggiungerà nemmeno la metà di quella cifra. Ecco, tra l'altro anche lì altro grande dibattito, poi questo denaro che finalità avrebbe, poi ne parliamo con i rappresentanti della finanza etica di questo aspetto. Il modello francese è applicabile, Vittorio Carlini, in Italia? Potrebbe essere una buona idea? Bah, e chi può dirlo? Ma tutto è applicabile. Io credo che l'ha accennato e sono assolutamente d'accordo con Barillaro prima. Se si vuole fare un riferimento al di là degli aspetti tecnici, che sono moltissimi, per esempio ricordiamoci che la base imponibile potenziale calcolata dal governo è molto inferiore rispetto a quella che in teoria molti broker indicano, perché per esempio sui derivati si è tenuto conto di un valore di stock e non del fatto che i derivati vengono aperti e chiusi, e quindi in realtà la base imponibile potrebbe essere molto più elevata, soprattutto sui derivati over the counter. Di conseguenza ci sarebbe un'aliquota iniziale minore, più bassa, e di conseguenza l'effetto l'effetto di riduzione dei volumi sarebbe più limitato, quindi questo vorrebbe dire che avendo una base di partenza più alta ci potrebbe essere un'aliquota più bassa. Ma quello che Barillaro sottolineava sulla MIFID, mi trovo assolutamente d'accordo, quando si chiama un discorso di contrastare, chiamiamola la speculazione, a me non piace parlare di speculazione, comunque di trader, di attività ribassista di brevissimo periodo, rialzista di brevissimo periodo, sono altri punti da toccare. Cioè noi abbiamo una MIFID che è dal 2007 in vigore, in cui tantissime cose positive, ma sul fronte della liberalizzazione degli scambi ha portato al superamento della concentrazione degli scambi, cioè al fatto che un titolo che si quota su una determinata borsa prima della MIFID poteva essere quotato solo su quella determinata borsa. Ora, delle due l'una: o la borsa è un asset di un paese in cui una società ci si va, si quota per trovare dei pubblici capitali, per aprirsi, viene portata magari da un venture capital e quindi diventa un asset che è anche importante per l'economia reale di un paese, oppure diventa un luogo dove le società che gestiscono i mercati, perché la MIFID era finalizzata a battere i costi di intermediazione, a rendere più efficace il mercato, a renderlo più liquido, dicevo, dove i soggetti che operano, che gestiscono i mercati, diventano concorrenti fra loro e poi aprono alle trading venues. Ma quello che sta avvenendo è che questi trading venues si fanno sempre più... Ci traduci in italiano il concetto della trading venues? Sono piattaforme alternative. Il fatto che, come diceva Barillaro, i titoli quotati in Italia, Piazza Affari, possono essere tranquillamente adesso quotati e scambiati su queste piattaforme alternative, che sono Turquoise, CiaX, eccetera. E poi ce ne sono tante altre, perché poi ci sono gli internalizzatori sistematici, ci sono i dark pools. Allora si crea un mercato frammentato, altamente sofisticato, altamente tecnologico, che agevola la speculazione, non la batte. Quindi diciamo questo che è l'elemento. L'intento chi nobile, vuole fare queste battaglie deve prima conoscere i mercati e poi andare a dire ok, andiamo a toccare questo. L'altra cosa sarebbe alzare i margini sui derivati. Cioè è semplicissimo, ci sono dei meccanismi, se si vuole veramente contrastare queste situazioni, che possono essere seguiti. Invece no, la proposta di direttiva europea sull'atomic tax prevede un'aliquota più bassa sui derivati rispetto alle azioni, cioè vuol dire che sul mercato cash tu paghi di più rispetto ai derivati. Allora lì la finalità è chiara, è diversa, è una finalità di voler fare dei gettiti fiscali, voler acquisire, diciamo agevolare certi prodotti rispetto ad altri, ma non parliamo di speculazione. Allora è per questo che io dico l'atomic tax io la voglio, ma se è veramente globale, se non è globale, no, è una merita, scusate l'anglicismo, stronzata. Beh, sì, stupidaggine. No, devo dire che qua a Salvadanaio stiamo sdoganando le parolacce anche noi. Adesso devo assolutamente correggere questa tendenza. Ma Vittorio dice: quando ce vo, ce vo. Vincenzo Tedeschi, direttore generale di Bink. Abbiamo questa piattaforma che consente di operare con appunto l'online. L'abbiamo presentata qualche settimana fa. E naturalmente siete arrivati sul mercato italiano da poco, anche se lei è italiano. Poi è stato appunto protagonista della finanza online con altri soggetti nel nostro paese. In passato la conosciamo molto bene. Bink arriva in Italia. Non solo appunto in un contesto di mercato completamente sfidante, perché abbiamo visto quello che è successo negli ultimi mesi, ma soprattutto anche con questa spada di Damocle che adesso anche in Italia arriva la Tobin Tax. Cosa dicono dall'Olanda? Certo, la tempesta perfetta, soprattutto visto dall'Olanda, che è una nazione contraria alla Tobin Tax e che non la applicherà. Bink ha pubblicato l'anno scorso un position paper mostrando anche la sua contrarietà alla tassa e ne ha discusso con le autorità olandesi, e devo dire che lì in Olanda c'è stata una discussione costruttiva sul. Ecco, quindi non è un no in via pregiudiziale, per esempio l'Olanda sarebbe teoricamente favorevole, in che misura, in che modalità di applicazione? No, l'Olanda è contraria. Ah, ecco, e quindi infatti no. È fuori dal gruppo degli 11 favorevoli che andranno ad applicarla, ma sostanzialmente perché se la tassa nasce con l'intento di ridurre la speculazione, io sono d'accordo con gli ospiti in studio, non è... almeno questa è la modalità di attuazione, perché se vogliamo colpire la speculazione, ad esempio, non si capisce come mai la tassa venga applicata ai piccoli risparmiatori e non solo magari agli intermediari istituzionali, oppure perché ad esempio vengano tenuti esenti i titoli di Stato che sono l'oggetto principe soprattutto ultimamente, della speculazione. Certo, una modalità italiana che vi potrebbe accontentare, se comunque mi pare che il governo sia abbastanza intenzionato a perseguire questa strada, quale potrebbe essere la modalità sulla quale siete disposti a discutere, tedeschi? Ma se la ricerca, se la necessità è ovviamente quella di individuare questo famoso gettito da 1 miliardo di euro, possono essere creati dei meccanismi virtuosi che da una parte recuperano gettito e dall'altro, per esempio, indirizzino gli investimenti su attività produttive. Ad esempio, se si vuole bloccare la speculazione, ma queste sono idee mie personali che butto lì sul terreno, si potrebbero tassare le operazioni fuori mercato, che ad esempio non hanno l'adeguata trasparenza. Prima si diceva la borsa è un meccanismo efficiente per le compravendite, mentre gli scambi fuori mercato quel mondo che si chiama in gergo finanziario l'over the counter? L'OTC. Esatto, si parlava prima di mercati valutari, come originariamente era partita la tassa. La borsa è un monopolio naturale, quindi la concentrazione degli scambi probabilmente è qualcosa che porta a maggior trasparenza e a maggior efficienza. E un altro aspetto, ad esempio, è distinguere tra risparmiatori privati, persone fisiche. Infatti, e poi lì che volevo arrivare, tra l'altro già colpiti anche dalle piccole patrimoniali nell'ultimo anno, dalla riorganizzazione della tassazione sul risparmio. No. Arriva adesso questo ulteriore balzello in gennaio. Io veramente temo che le persone, già che considerano il risparmio come un lusso, secondo quello che dice il rapporto per la giornata mondiale del risparmio che è stato diffuso stamattina, adesso veramente stiamo rischiando di far scappare un po' tutti tedeschi. Poi questo lo penso io, ma solo per il fatto che ne arriva un'altra che è anche un po' complicata, non perché questa sia una tassa che magari non possa avere anche la sua finalità positiva, ecco. Si pensi alla tassa che lei ha appena citato, la cosiddetta patrimoniale sul dossier titoli. Quella è esattamente un esempio di impiego, diciamo, di tassazione anti virtuosa, perché il dossier titoli, dove ci sono gli investimenti della liquidità in attività produttive, quindi parliamo di aziende quotate in borsa o di obbligazioni, quindi è una messa a disposizione della liquidità, dei risparmi per creare sviluppo, viene tassato con un bollo allo 0,1 che l'anno prossimo salirà allo 0,15. D'altra parte invece la liquidità improduttiva giacente sul conto corrente viene tassata con un bollo forfettario molto basso di 34 euro. Allora, tanto sto leggendo un po' i messaggi. Emanuele dice: per chi fa scalping nel forex la Tobin tax sarebbe penalizzante. Lo scalping, magari traduciamo, Vittoria, il trading quotidiano veramente velocissimo, è quello proprio più fare agguerrito. Fare lo scalper è proprio il trader più accanito, quasi quasi come Luca Barillaro. Poi dopo lo sento, naturalmente lo provoco un po'. C'è Carlo che addirittura vede una conseguenza, una deriva di altro tipo, un'ulteriore forzatura dello Stato, l'introduzione della Tobin tax per obbligare i risparmiatori a sottoscrivere i titoli di Stato che oramai non riscuotono più la fiducia di nessuno. Sono esenti i titoli di Stato? I titoli di Stato sono esenti perché nella lottica, io ripeto, un po' semplicistica di chi ha formulato questa legge, si pensa: se io tasso le transazioni sui titoli di Stato allora ho una riduzione dei volumi e questo non lo vogliamo. No, io non sono d'accordo con quello che hai detto te sul lettore. In realtà il problema è che però se la finalità dovrebbe essere quella di contrastare l'attività ribassista, se tu lasci libero di andare short sul titolo di Stato non limiti, quindi questa, diciamo, finalità speculativa non viene osteggiata sui titoli di Stato. Andrea Baranes, presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e portavoce della campagna 005, buongiorno. Buongiorno a tutti. Chissà mai dove ho messo l'accento del suo cognome, mi perdoni, tanto ci sarà sicuramente abituato. Adesso la sentiamo, devo dare suggerimenti per chi è in viaggio. Tra poco un'altra domanda per un secondo a Vittorio Carlini. Fondi comuni italiani ed estere, unit linked, c'è una rosa di strumenti che ipoteticamente potrebbe essere esclusa dall'applicazione? Non ne sappiamo ancora molto, Vittorio. La normativa fa riferimento esplicito per quanto riguarda alle azioni e ai titoli derivati, partecipativi. Per esempio, una discussione era sulle obbligazioni convertibili che in teoria dovrebbero stare fuori, secondo alcuni, secondo altri invece, visto che quando tu le compri devi anche dichiarare, perché l'obbligazione convertibile ti permette poi eventualmente di convertire l'obbligazione in una quota della società, in quel caso potrebbe esserci un rientrare nella definizione. Anche qui però si discute sulle varie definizioni, come si discute sulla definizione anche di nullità, della sanzione di nullità, su cui non si è capito bene come si possa e si debba applicare, visto che poi in borsa c'è la regola della settlement definitivity, cioè della definizione nella giornata dell'operatività, quindi non è che quindi andare è cristallizzata, trasparente, la si conosce, non è che si può sfuggire eventualmente all'applicazione della imposta. Io ho sentito importanti giuristi erano molto perplessi su questo aspetto, si chiedevano veramente cosa volesse e in pratica dire questa previsione di sanzione. L'ipotesi più plausibile era quella che andasse a fare riferimento solo alle attività di società non quotate e quindi non alla borsa in continuo. Mm-hmm. Ma allora in questo caso si sarebbe dovuto fare una legge molto più articolata e molto più specifica nel suo ambito, anche a livello di un quadro normativo come questo, perché poi è vero che uno dice aspettiamo il decreto esecutivo che poi ci spiegherà nei particolari, però comunque non, è un po' di grana grossa la definizione di questa. Brancoliamo ancora un pochino nel buio, ci fermiamo, suggerimenti per chi è in viaggio, poi vado con la finanza etica, a tra poco. Salva Danaio. Allora, eccoci di nuovo in diretta a Salva Danaio, dove stiamo cercando di ipotizzare tutte le conseguenze possibili ed immaginabili relative all'introduzione, che deriverebbero dall'introduzione della Tobin Tax, sulla quale naturalmente il governo sta facendo molte ipotesi, molte simulazioni. Beh, per la verità, per come è stata costruita fino a questo momento, a giudicare dai giudizi dati dai nostri ospiti, grandi simulazioni non sono state fatte. Cioè, come dire, una concezione di massima sulle conseguenze positive per le entrate fiscali di questo governo, ma al momento appunto ancora si naviga un po' nel buio per quello che riguarda la concretezza della misura. Andrea Baranes, presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica e vi ricordo ancora portavoce della campagna 005, perché in Italia da anni esiste questa campagna che chiede una tassa sulle transazioni finanziarie proprio con finalità antispeculative. Presidente, era questa la tassa che volevate, quella di cui leggiamo in questi giorni sui giornali? Pensavate a qualcosa di diverso? Voi, l'importante è che se ne parli e che qualcosa si introduca nel nostro paese, che abbia l'obiettivo di abbattere la speculazione, anche se poi gli interlocutori che abbiamo avuto fino a questo momento non sono per nulla d'accordo su questo. Allora, sicuramente l'importante è che se ne parli, che ci sia finalmente un dibattito. La proposta attuale, tanto quella prevista dal governo italiano quanto le ultime direttive e gli ultimi documenti della Commissione europea, sono sicuramente migliorabili e qualunque critica, proposta, dibattito è più che benvenuto per avere una proposta realmente efficace. Su questo direi che è fondamentale come viene disegnata. Nella scheda di apertura è stato ricordato l'esempio della Svezia, al contrario si potrebbe ad esempio citare la stessa City di Londra, la stessa Gran Bretagna, che da anni ha un'imposta, la stamp duty, che funziona in modo molto simile unicamente sulle azioni, che ha un tasso 10 volte superiore di quello che viene proposto, non la elude praticamente nessuno, genera un gettito di miliardi di sterline, funziona benissimo e non dà nessun problema. Quindi come viene disegnata l'imposta è fondamentale, il dibattito è fondamentale per migliorarla, ma soprattutto anche rispetto al fatto che bisogna farla su scala globale, l'esperienza dimostra che non è così, e ancora prima, se non si parte aspettando che arrivino tutti insieme, non si va da nessuna parte. Andiamo all'Italia, questo, sì. Una sola battuta, mi dispiace dare la notizia in diretta alla persona che è intervenuta dall'Olanda. L'Olanda proprio questa mattina ha deciso di aderire alla proposta europea, quindi anche l'Olanda si è aggiunta al novero dei paesi che vuole la tassa sulle transazioni finanziarie. Adesso Vincenzo Tedeschi lo andiamo a sentire, che per la verità è qui in Italia, però rappresenta appunto questa società olandese. Presidente, ci vuole dire come la vedrebbe però bene applicata in Italia? Lei sarebbe d'accordo nel separare l'applicazione di questa imposta nell'applicazione tra piccoli risparmiatori e grandi intermediari? Perché mi sembrerebbe anche opportuno, visto che comunque già risparmio il nostro paese non è poco colpito e già siamo dei grandi risparmiatori, vogliamo perdere anche questa ricchezza, non rischiamo di andare a fare ulteriore confusione tra gli investitori e i risparmiatori di piccolo taglio? Allora, sicuramente anche qui si possono introdurre delle misure. A me quello che stupisce un po' nel dibattito è che non si consideri quanto oggi il peso della finanza speculativa allontani molti piccoli risparmiatori e danneggi le stesse imprese. L'idea mi sembra come se non avessimo nessuna regola per la circolazione stradale. Qualcuno proponesse, mettiamo dei semafori, delle leggi, dei divieti, si dice sì, ma così con i semafori, con gli stop si rallenta. Sì, ma evitiamo migliaia di morti. Consideriamo nell'insieme. Prima di dire aumenta il peso dei derivati per chi li usa con strategie di copertura, per esempio sulle oscillazioni dei cambi, perché non consideriamo che oggi il 99% dei derivati non prevedono la consegna del sottostante e sono usati come pure scommesse? Oggi, come veniva anche ricordato giustamente, abbiamo una finanza ipertrofica che è centinaia di volte superiore all'economia reale, che genera le oscillazioni, le speculazioni, l'instabilità dei mercati. Cerchiamo di intervenire lì, poi minimizzando quelli che possono essere gli impatti negativi. Ma per lei non sarebbe un peccato se poi gran parte delle transazioni, abbiamo dato delle percentuali, prima cominciassero a migrare all'estero, rendendo ancora più povero il mercato italiano? Già abbiamo una borsa piccola dove le società non si quotano. Tutto questo non rischierebbe di rendere il nostro mercato ancora meno interessante nei confronti della comunità finanziaria internazionale? Questo sicuramente, ma rimanda l'idea di a che cosa serve il mercato finanziario: la finanza come strumento al servizio dell'economia o la finanza come gigantesco casinò per fare soldi dai soldi nel più breve tempo possibile? L'idea di tassare, di ridurre i limiti di velocità della finanza, di intervenire sull'high frequency trading, e qui sono d'accordo che la proposta va assolutamente migliorata, ma l'idea di bloccare le operazioni finanziarie che sono a carattere puramente speculativo e che oggi sono la stragrande maggioranza, libererebbe risorse per permettere alla finanza di fare molto meglio quello che deve fare. Senta, ovvero essere uno strumento al servizio dell'economia. A voi va bene questa aliquota 0,05%? Noi è l'aliquota che abbiamo proposto, anche qui chiaramente si può modulare a seconda dello strumento, è assolutamente favorevole a un dibattito aperto per valutare caso per caso azioni, obbligazioni, derivati e quant'altro, qual è l'aliquota ottimale in funzione del mix tra l'attività di freno alla speculazione e il gettito che si vuole generare. Allora, per chi volesse saperne qualcosa di più, c'è su internet la campagna 005. Io tra 3 minuti chiudo, quindi devo far fare un rapido giro di chiusura anche agli altri interlocutori. Intanto Vincenzo Tedeschi, cosa... Ma intanto volevo precisare che noi siamo a Milano e non in Olanda. Infatti, quindi stamattina non è che magari il governo olandese non l'ha chiamata personalmente Tedeschi. Mi sentirei anche un po' in disappunto perché non è stato avvisato direttamente al governo olandese di questa nuova presa di posizione appunto dall'Olanda, che evidentemente farà passare a 12 il numero dei paesi che intendono introdurre la Tobin Tax, e quindi stanno studiando le modalità. Barillaro, che fare lo scalper. No, lo scalper è una parte dell'attività. Noi facciamo anche consulenza a decine di imprese che si coprono su rischi reali, sì, quindi infatti. Quello sarà un'altra parte. Però vorrei dire che le piccole e medie imprese, la stamp duty in Inghilterra non è pagato dai member dell'exchange. Questo ha, come dicevo prima, favorito il fiorire di strumenti over the counter come i CFD o lo spread betting. Quindi, mamma mia, poveri ascoltatori miei. Per cose che non c'entra niente con la tassa sulle transazioni finanziarie. Mettere divieti per regolamentare il traffico non è mettere pedaggi. La TTF, la tassa sulle transazioni finanziarie, è mettere un pedaggio. Voglio dire, se hai la febbre non devi rompere il termometro e poi ti provi la febbre e dici non ho più la febbre. Devi aggiustare il termometro. E io che sono un lettore del comprarne anche un altro magari. Mesi, prego? Per comprarne anche un altro che può avere anche delle caratteristiche diverse. Un altro, ma lo devo semplicemente aggiustare. Io sono un lettore e condivido molte delle cose che sono scritte sul sito 005, se non che non bisogna mai sfociare nell'odio revanchista, cioè nel voler tassare a tutti i costi, in questo caso i residenti, che non c'entrano proprio nulla con quello che è successo negli ultimi anni, nelle banche e nei privati. Quindi sono d'accordo sul tassare l'OTC e nell'esentare i privati e le imprese che usano i derivati per coprire rischi reali. Barillaro, tengo lei solamente per un'ultima considerazione. Molti ascoltatori ci chiedono l'impatto sui fondi comuni di investimento di una transazione di questo tipo. Magari non c'è nessun impatto diretto per l'investitore che sottoscrive un fondo comune con un picco, con un pacco, come vuole farlo, però chiaramente il fondo di investimento è fatto di un portafoglio di azioni, c'è un gestore che compra e vende in una giornata, in una settimana, quindi lì c'è un effetto indiretto. Aumentiamo anche le commissioni dei fondi? Il total expense ratio aumenterà, chiaramente si cerca di esentare almeno i fondi pensione, però in un piano di accumulo o in una previdenza integrativa che prevede che il fondo va a mercato e compra delle azioni o le vende, come diceva prima Vittorio Carlini, l'aprirsi delle offerte tra denaro e lettere, quindi la illiquidità del mercato determinerà peggiori prezzi di acquisto e peggiori prezzi di vendita. Quindi alla fine dei 40 anni di un piano d'accumulo, di un piano pensionistico, il povero risparmiatore si troverà tassato non tanto dalla Tobin ma dalla illiquidità del mercato. Ecco, diciamo che io sono una sempliciotta, ma che nelle misure attuative il governo dovrà prevedere, secondo me, una bella rosa lunga di esenzioni da questa misura. Te, Vittorio Cardini, ti do 10 secondi di tempo, hai un messaggio finale senza parolacce? No, sto scherzando. Io sono una persona assolutamente è vero. No, che... È che anch'io sono d'accordissimo in linea di principio, lo ripeto. Non sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto dal propositore del 0,05, nel senso che appunto non si tratta di mettere dei cartelli, qui è un pedaggio. Soprattutto ricordiamoci una cosa: è vero, in Inghilterra, l'ho già accennato Barillaro prima, c'è la stamp duty, che è un'altra cosa, ma ricordiamoci che lì è stata creata un'economia e una finanza basata sulla finanza stessa, cioè c'è un contesto completamente diverso. Qui noi andiamo a ridurre una borsa e uno settore finanziario che è già minimale e residuale rispetto al mondo. Ci rivediamo, ci risentiamo, chissà, magari prima di Natale, quando avremo qualche dettaglio in più. Grazie a Vittorio Carlini, Luca Barillaro, Vincenzo Tedeschi, Andrea Baranes. A tutti, buona giornata domani.